Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità, sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io con la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Ciao a tutti e tutte da Adeps e Olga. Savona, 1974. In questa cittadina ligure il PC domina incontrastato e la conflittualità sociale e sindacale si attesta su posizioni moderate. La sinistra extraparlamentare più radicale è inconsistente e le organizzazioni neofasciste da più di 30 anni non hanno cittadinanza. In un posto così, sicuramente non ti aspetti un'escalation di attentati dinamitardi. Eppure, nel novembre del 74, in soli 15 giorni, esplodono 7 bombe. Colpiscono edifici pubblici, abitazioni private e infrastrutture. Il 20 novembre, l'esplosione in ordigno collocato nel portone del civico numero 20 di via Giacchero, in pieno centro cittadino, provoca la morte della signora Fanny Dallari, avvenuta il giorno seguente, e di Virgilio Gambolati, verificatasi 3 mesi più tardi a causa delle ferite riportate. Si tratta di uno dei 12 attentati dinamitardi che colpiscono Savona tra la primavera del 74 e quella del 75, il picco più alto di tensione politica vissuto dalla città dal dopoguerra in avanti. L'attentato irrompe in città con tutta la sua violenza e verrebbe da scomodare De André, che l'anno prima scriveva: io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società. Se non fosse che nel resto d'Italia le bombe esplodono da almeno 5 anni. Nessuna novità dunque e pochi dubbi sui colori che si celano e vengono complicemente celati dietro gli attentati dinamitardi. Ricordarlo è importante, soprattutto in questi tempi di becero revisionismo storiografico. Pensiamo alla recente fiction Gli anni spezzati, ma anche al film di Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage, o al testo Il segreto di Piazza Fontana del giornalista Paolo Cucchiarelli. Ordine Nero, organizzazione neofascista di squisita matrice terroristica nata dalle ceneri di Ordine Nuovo, rivendica la paternità di alcune azioni. La stampa azzarda la suggestiva ipotesi che Savona rappresenti un laboratorio di azione terroristica per testare la reazione della popolazione in vista di un futuro colpo di Stato. Non è da escludersi però la possibilità di un succedersi irregolare di attentati neofascisti, a seguito della progressiva disgregazione del movimento eversivo di destra, con l'obiettivo di destabilizzare il sistema. In quel momento, infatti, le forze eversive di estrema destra venivano colpite, con grave ritardo e per la prima volta, dall'azione repressiva dello Stato e contemporaneamente scaricate dalle connivenze interne ai servizi segreti. Detto ciò, nonostante il bilancio di 12 attentati, 2 morti e una ventina di feriti, nessuna inchiesta porta risultati e polizia e magistratura non individuano nessun colpevole. Oh, the fishes will laugh as they swim out of the path. And the seagulls, they'll be a-smiling. And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that I used for to get the ship confused will not be understood as they're spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and will be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts upon the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. Then the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. Oh, the foes will rise with the sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour then the ship comes in. Then they'll raise their hands saying, we'll meet all your demands. But we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide. And like Goliath, they'll be conquered. Nel mese di novembre, l'impressionante costanza degli attentati, praticamente uno ogni due giorni, provocano la reazione popolare. Si assiste a una mobilitazione dal basso, spontanea e capillarmente diffusa sul territorio, al fine di prevenire altri attentati. Prende così forma un movimento che trova immediatamente feconde strutture nei consigli di quartiere, attraverso i quali tradurre l'iniziale confuso spontaneismo in autogestita vigilanza civile. Il terreno è fertile. Tra il 69 e il 74 sorgono in città ben 14 consigli di quartiere, l'ultimo dei quali sotto l'impulso degli attentati di Amitardi, che arrivano a coprire la quasi totalità dell'area comunale. Questi si riuniscono nei luoghi storici di aggregazione sociale dei vari rioni. Per la maggior parte dei casi si tratta di società di mutuo soccorso e benché la loro capacità di intervento politico rimanga limitata, creano i presupposti per nuovi spazi di partecipazione e conflitto sul tema della qualità sociale e dello sviluppo urbano. Il presidio costante ed auto-organizzato dei quartieri va avanti per tutto il mese di dicembre. Sul finire del mese di gennaio ha una flessione per poi riprendere con forza all'indomani degli attentati di febbraio. In alcuni consigli di quartiere, come quello di Savona Ponente, i volontari si dotano di tesserino identificativo e i presidi del territorio sono organizzati meticolosamente. Dividendo il quartiere in 9 zone. Poi si pensò di organizzare le persone anziane, assieme alle donne, durante il giorno, che avrebbero dovuto vigilare davanti ed attorno alle scuole e nei punti più disparati. Prima dell'inizio della giornata scolastica veniva esercitato un accurato controllo all'interno delle scuole. Dopo che i bambini erano entrati, con i cancelli chiusi, la vigilanza continuava all'esterno, sino all'orario di uscita. Questo giorno dopo giorno. Invece la notte diventò il momento degli uomini, che gruppi di 3 avevano il compito di sorvegliare gli edifici scolastici. Altri controllavano la società di mutuo soccorso e la parrocchia. Ed infine, diversi gruppi sorvegliavano le strade ed i caseggiati. Tutti i portoni, sia di giorno che di notte, dovevano tassativamente essere chiusi. I muri di cinta della Chevron, dove nei suoi enormi serbatoi erano depositati milioni di litri di carburante, venivano anch'essi sorvegliati con occhi di riguardo, perché bastava poco a far saltare in aria mezza Savona. Si controllavano le strade, specie in entrata al quartiere. I veicoli, che sembravano sospetti, venivano da noi segnalati alle forze di polizia. Ognuno di noi portava in tasca un tesserino di riconoscimento, riportante tutte le generalità e il numero della carta di identità. Le tessere, intestate al quartiere di Savona Ponente, erano rilasciate soltanto dal Comitato Unitario Antifascista. Al braccio, ad ognuno di noi, era legata una fascia rossa, con su scritto, con pennarello nero, Consiglio di quartiere, Savona Ponente. È bene sottolineare che le forze istituzionali cavalcano l'onda del movimento, non il contrario. L'indirizzo che il Partito Socialista dà ai suoi militanti è di partecipare e promuovere le azioni di mobilitazione democratica che stavano sorgendo su iniziativa degli organismi di base, quali consigli di quartiere, società di mutuo soccorso, sezioni dell'AMPI e sindacati. E l'allora segretario della CGIL riconoscerà che l'organizzazione della vigilanza è un fatto che è venuto veramente dal basso dei quartieri, non nasceva dal sindacato, che l'ha certamente sorretta, ma non ne è stato il promotore. Non c'è dubbio però che il movimento, pur mantenendo una sua autonomia organizzativa, subì o accolse l'egemonia culturale del Partito Comunista, che sia a livello locale che nazionale cercava di riappropriarsi di un certo senso di identificazione con lo Stato. Si palesa dunque un conflitto tra cittadinanza e istituzioni, che non si traduce in scontro frontale, ma rimane sotterraneo e contraddittorio. L'esigenza di spazi alternativi che includano la base nel sistema di rappresentanza cresce attraverso la voce dei consigli di quartiere, i quali rivendicano luoghi di espressione e socialità che le forze politiche non garantiscono. La conflittualità sociale si manifesta a bassa intensità rispetto ad altre realtà del paese. Qui il conflitto non segue le consuete contrapposizioni rossi-neri, Stato, nemici dello Stato, ma è altrove, meno eclatante e vistoso, ma non per questo meno significativo. Si tratta infatti di mettere in discussione il sistema di rappresentanza istituzionale, con pratiche quotidiane di democrazia partecipativa e di decentramento dei poteri. La spinta dal basso si arresta con l'istituzionalizzazione dei consigli e perde così la sua carica di novità, mettendo fine a quell'esperimento che, oltre a contrastare i gruppi neofascisti, dava un esempio di organizzazione alternativa agli statici meccanismi di partito. E con queste riflessioni vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org e alla prossima puntata! Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue.